anzi ci sono tante leggi in Italia. Quello che si vuole non sono più leggi qui, si vuole un po' più di rispetto per le leggi che ci sono già. Quindi bisogna ma trovare credo il modo. Non sono l'unico che dico questo. Per farle applicare. Cosa invece sì. porteresti in Danimarca degli italiani? Cosa che apprezzi degli italiani se tu potessi? Ma devo cominciare da cose fondamentali: la cucina, il cibo e il vino. Questo devi portare in tutto il mondo, perché qui si mangia talmente meglio e si beve talmente meglio che si fa al nord delle Alpi. Questo è fondamentale, è un po' del bel clima anche, perché in Danimarca è vero, è sempre fresco e vorremmo un po' di freschezza a Milano in agosto, però c'è sempre un vento. Così si potrebbe fare un miscuglio del clima, cibo, vino. E poi e gli italiani però più di rispetto. Non so, gli italiani però non sono particolarmente fieri del proprio cibo e del proprio vino perché lo danno per scontato. Solo vivendo in uno stato dove l'enogastronomia non è curata come qui, forse ci si rende conto della mancanza e del tipo di cultura che è legato a questo aspetto della vita, che in Italia si dà molto per scontato. Bisogna per tanti versi mandare gli italiani a stare un po' all'estero, perché così apprezzerete molto di più quello che avete voi qui in Italia, e così magari anche un altro grosso problema, imparerete un pochino meglio le lingue, perché questo credo sia un grosso problema in Italia. E dunque anche l'internazionalizzazione delle lingue. Guarda, io raccolgo il tuo appello, io appena rientro dall'estero, sono stata 12 anni in Canada, quindi capisco benissimo a cosa ti riferisci sull'apprezzamento poi delle cose che in Italia ritrovi. Grazie naturalmente, buona giornata. Anche a voi. E abbiamo ascoltato la conversazione con la corrispondente danese questa mattina, Charlotte Silverstein, da Milano racconta questo paese alla Danimarca e ai suoi lettori. C'è moltissimo da raccontare anche dai giornali italiani. 16 minuti trascorsi dopo le 8, ancora buona giornata da Irene Zerbini. Ieri uno scambio di battute tra giornalisti, è partito il Foglio additando un articolo sulla prima pagina di Repubblica firma Federico Rampini dedicato ai calzoncini corti di Michelle Obama. Punta il dito il Foglio dicendo che un inviato blasonato e capace come Federico Rampini non dovrebbe soffermarsi su questo tipo di notizie. Allora, quali sono le notizie che ogni giorno meritano di finire sulla prima pagina, sulle pagine interne di un giornale? Ditecelo al 349-238-6666. Ne parleremo in seguito, prima però vogliamo andare in Afghanistan. Arrivano notizie contraddittorie, avete sentito una breaking news di Radio 24, il presidente afghano uscente Hamid Karzai ha vinto le presidenziali di ieri al primo turno, questo quanto affermato dal responsabile della sua campagna elettorale, che ha detto: mi baso sui primi risultati dello scrutinio. Questa è una Reuters. Una France Press ci segnala che il comitato elettorale del principale avversario del presidente Hamid Karzai, cioè Abdullah Abdullah, ha a sua volta vinto, e anche lui senza scrutinio. Queste le affermazioni dunque dei portavoce dei due candidati principali, entrambi affermano di basarsi sui dati parziali dello scrutinio. A osservare che queste elezioni abbiano un minimo di credibilità internazionale ci sono osservatori anche dall'Unione Europea, tra loro anche un italiano in collegamento con noi, Massimo, il cognome non verrà rilasciato per motivi di sicurezza. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi. In quale città ti trovi e qual è la tua attività in questo momento? Ci troviamo nella regione occidentale, ad Herat. In questo momento stiamo osservando lo scrutinio delle elezioni provinciali. Ieri c'è stato lo scrutinio delle presidenziali, ieri sera e stamani hanno iniziato quelle delle provinciali. naturalmente a fare commenti o a fare dichiarazioni sul risultato dello scrutinio e quindi non ti verrà chiesto nulla. Voglio sapere dal tuo punto di vista ad Herat, oggi si parlava del voto afghano come grande vittoria nel senso di affluenza sostanziosa, affluenza cospicua, questo quanto danno i giornali italiani. Che tipo di affluenza hai visto, hai osservato tu ieri rispetto a quelli che dovevano arrivare ai seggi? L'affluenza nella città è stata molto, molto alta, certo la città non è rappresentativa della giornata rurale, però comunque l'affluenza è stata abbastanza alta e non ci sono stati problemi di sicurezza come erano stati preannunciati nei giorni precedenti, almeno in questa parte. Quindi senz'altro un'affluenza buona, certo non abbiamo dati tutti gli stessi, però senz'altro buona. C'erano donne ai seggi? Sì, partecipazione sia maschile che femminile, per quello che abbiamo osservato noi, abbastanza simile. Certo, la partecipazione femminile più bassa, però non così distante da quella maschile. C'erano grandi timori per la sicurezza e anche per la sicurezza di chi svolge questo prezioso lavoro come te, degli osservatori internazionali. Come avete trascorso il giorno precedente la vigilia? C'era grande tensione, grande paura? Ma come sapete, ci sono delle zone in Afghanistan che sono particolarmente pericolose. Però l'Afghanistan non è scritto come il sud o la parte orientale. Quindi c'erano senz'altro delle occupazioni, però non certamente come nel sud. Quanti sono gli osservatori internazionali a Herat? Osservatori internazionali a Herat dell'Unione Europea siamo in 6. In? Quanti? 6. 6. E quanti seggi sono stati aperti nella città? Nella città erano aperti 40 polling center che corrispondono a una media di 5-10 seggi, per cui siamo intorno ai 1.500-2.000 seggi. All'inizio ieri, nella mattinata afghana, ci siamo collegati con l'Afghanistan e si parlava di strade vuote, traffico nullo, di una cappa di terrore un po' in tutte le città. È come se qualcosa fosse cambiato nel pomeriggio. Ci confermi questa situazione? Hai vissuto la stessa esperienza a Herat? In effetti la mattina nelle prime ore fino intorno alle 8 alle 9 erano abbastanza vuoti, poi si sono riempiti i casi. Chi sono gli osservatori internazionali? Che tipo di esperienza vi è stata richiesta per poter prendere parte a questa importante votazione? Generalmente hanno esperienza di osservazione elettorale o di cooperazione internazionale e quelli che stanno sul campo vanno sul campo in modo volontario, mentre poi c'è un gruppo che sta nella capitale che organizza la missione e che fa poi l'analisi dei risultati. Che hanno un profilo di professionale, quindi hanno un profilo o politico, legale, o elettorale di professionale. Grazie Massimo, state concludendo lo scrutinio delle provinciali e attenderemo naturalmente anche di sapere qualcosa di più sui risultati delle presidenziali. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, a sua volta a Herat, ma ti stai spostando, Lorenzo? Sì, io ho fatto 20 giorni, ho passato 20 giorni a Kabul, sono venuto a Herat nella zona degli italiani proprio per il voto, e adesso sto tornando, vado poi verso sud, verso Helmand, verso... E come avete sentito, è difficile anche parlare con il satellitare durante gli spostamenti all'interno del paese. Raccontava Cremonesi, racconta anzi sul Corriere della Sera di oggi, proprio di questo cambiamento. Dal mattino c'è stata una vigilia in cui le anticipazioni di attacchi, di terrore, di problemi sono state dense, arrivavano da più parti. Alle 7 del mattino Herat sembrava paralizzata, come se la popolazione, dice, trattenesse coralmente il respiro. E dunque solo ai seggi ben controllati dalle nuove forze di sicurezza afghane c'era un qualche movimento, ma è bastata un'ora dall'apertura dei seggi perché la gente trovasse il coraggio di uscire. Un'ora d'attesa in cui i commenti erano del tipo riportati dall'inviato: troppa gente, troppo pericolo, se arriva un kamikaze muriamo tutti, verrò più tardi. E ce l'ha confermato anche la testimone afghana che abbiamo sentito durante 24 mattino a Kabul. Lorenzo Cremonesi ora è ancora in collegamento con noi. Lorenzo, pronto? Lorenzo, ci senti? È veramente difficile e comprensibile questa difficoltà. Il racconto della giornata continua e anche Cremonesi a Herat parla di situazione soddisfacente. Le pattuglie degli italiani temevano la violenza, ma in realtà pensano di essere riusciti ad assicurare l'ordine. È stato mantenuto il controllo. Questo è il bilancio finale. Massimo, quindi il bilancio è soddisfacente in Afghanistan, anche all'interno del gruppo dei tuoi colleghi, gli osservatori dell'Unione Europea? Fino a questo momento non ho avuto la possibilità di parlare con gli altri province, però per noi è soddisfacente, la partecipazione c'è stata, i seggi hanno aperto, quindi è senz'altro è stato un buon esercizio elettorale. Oggi partecipate allo scrutinio, voi vi dovete tenere a una certa distanza, avete modo di vedere fisicamente le schede, come siete posizionati, cosa puoi fare, fino a che punto puoi intervenire? No, abbiamo completo accesso ai seggi, ora stiamo osservando un seggio femminile, quindi è la mia collega che sta qui all'interno, però in realtà in questo caso, essendo poi una città abbastanza... Pronto? Sì, noi ti sentiamo. Ah, ok. Quindi stiamo osservando il seggio femminile e abbiamo accesso, diciamo, a vedere benissimo le schede, ad osservare il processo di scrutinio. Lorenzo Cremonesi si sta spostando, l'inviato del Corriere della Sera. Se ci senti, facci un bilancio dell'andamento del voto ieri, della giornata di ieri. Ma io il bilancio lo faccio paragonandolo alle elezioni presidenziali del 2004, quando davvero lo shock positivo, dell'afflusso fu gigantesco, cioè vedere queste centinaia di migliaia di persone, mi ricordo, sulla strada verso Bamiyan, sulle montagne a nord di Kabul, nella zona del nord di Mazar El Sharif, anche qui a Herat, dove mi trovo oggi, decine di migliaia di persone che arrivavano dai villaggi più sperduti, centinaia di migliaia di persone che si riversavano nei seggi, code fino alle 9:30, 10 di sera, dalla mattina alle 7, addirittura. Allora ci fu un decreto presidenziale di Karzai per permettere il mantenere aperti i seggi, per permettere a tutti di votare. Ecco, tutto questo ieri non si vedeva. I miei diversi collaboratori sparsi un po' per il paese, amici, giornalisti afghani, che in più parti, oltre che noi qui a Herat, mi hanno raccontato quello che hanno visto, non hanno visto questa grande affluenza. E per me ieri sera era evidente che il 74% di affluenza del 2004 oggi sarà una chimera. Mi sembra che peraltro i primi numeri, i primi dati che arrivano, molto parziali, più o meno confermino. Si parla di un'affluenza 40, forse 45%, qualcuno parla del 50%, mi sembra molto molto strano. Eppure tutti invece i giornali italiani questa mattina non hanno esitazione a definire questa votazione un successo, c'è stata grande affluenza, è stato non solo mantenuto il controllo, questo è il titolo del tuo pezzo, ma addirittura è stata vinta la sfida coi talebani, non si è ceduto al ricatto talebano, e giustamente tu metti in luce, attenzione, abbiamo un banco di paragone, le prime elezioni presidenziali rispetto ad allora si è fatto un passo indietro, forse uno su sette si prevedeva ieri sarebbe andato a votare, adesso tu ci parli di affluenza intorno al 40%. Tutto relativo, infatti direi che la grande sfida di questa elezione, oltre all'affluenza alle urne, era la sfida al terrorismo, la sfida ai talebani, che nel 2004 erano totalmente battuti, erano indisfatta, e invece negli ultimi anni hanno rialzato la testa fino a minacciare con le bombe e gli attentati nelle ultime sei ore e anche durante il voto. Ecco, direi che questa sfida è stata battuta, è vero, cioè, se uno parla dal punto di vista della sicurezza e dell'aspetto militare, ieri io anch'io ho parlato con il nostro comandante, con il generale Rosario Castellano, che comanda la regione occidentale, e lui giustamente poneva l'accento che di fronte alle paure, come riportiamo, insomma, di fronte alle paure delle ultime ore, degli ultimi giorni prima del voto, le cose sono andate molto meglio, e quindi è una questione di aspettative, ci aspettavamo chissà cosa e tutto sommato non è avvenuto. Però il problema adesso è politico, il problema è di legittimità politica per chiunque vincerà, e comunque rimane questa sensazione che tutta la stampa occidentale, ma anche la stampa afghana libera, a partire di Tartolo TV, che è la grande televisione privata di questo paese, uno dei miracoli della democrazia nata dalla disfatta talebana del 2001, notano, e cioè un senso di sfiducia, un senso di pensare che il voto conta poco, un senso di non partecipazione, un senso di avere perso in qualche modo la battaglia della ricostruzione a 8 anni della guerra, l'impotenza di fronte alla corruzione, a un'amministrazione che non funziona. E questo è il grande problema del futuro, e che in qualche modo, ripeto, in qualche modo spiega anche la crescita del terrorismo e del sostegno adesso nelle zone tribali. Poi naturalmente noi sappiamo dalle lezioni anche del terrorismo occidentale in Italia che bastano poche persone motivate, ben addestrate, e qui in questo caso addirittura pronte a morire, come succede per il terrorismo islamico, di matrice islamica, per creare il caos, a maggior motivo in un paese così sfasciato qual è l'Afghanistan. E direi questa sfida ieri è stata battuta, ma non è l'unica. Adesso si apre la grande sfida politica. Si apre il grande fronte politico. Lorenzo Cremonesi, grazie per il lavoro, grazie per la testimonianza, e grazie naturalmente a Massimo, l'osservatore elettorale dell'Unione Europea in Afghanistan. 35 minuti dopo le 8, cosa succede alle grandi firme quando si trovano a descrivere i pantaloncini di Michelle Obama? Questo il titolo polemico di un articolo, tra l'altro non firmato ma siglato, SDM, ieri sul Foglio, all'indirizzo appunto di una grande firma, e che ci ha suscitato delle domande. Allora, cos'è lecito selezionare perché vada in pagina, cosa invece andrebbe cestinato immediatamente, qual è la bussola da seguire? Intanto partiamo da questa sorta di casus belli, da questa polemica instaurata dal Foglio in agosto. Anche la sorte delle grandi firme si fa perigliosa. Uno parte, per dire, dall'acutissima disamina delle paure dell'America, magari per ritrovarsi non meno duttamente a indagare su un paio di short della stessa. È accaduto niente meno che a Federico Rampini. Ora, Rampini è il giornalista più planetario che abbiamo, dalla Cina all'India, dalla New Economy a Mao, da San Francisco all'ingegnere, senza nemmeno parlare con l'accento di Alan Friedman. È colto, è dotto e non si veste come i comuni giornalisti quando vanno a porta per il politico di turno, che sembrano un po', con rispetto parlando, l'agrario quando ha a cena il vescovo. Se vuoi sapere dove vanno i continenti devi chiamare Rampini. Ora però Rampini, dicono, si è buttato sui pantaloncini di una donna coraggiosa, come ha titolato Repubblica, a motivo del ridotto vestimento sulla scalinata dell'aereo presidenziale. Se mai sarà immortalata mentre prende il sole in bikini sul giardino della Casa Bianca, verrà quasi certamente il momento di una donna valorosa, ironizza ancora il Foglio. E per rispondere a questa domanda, poi naturalmente abbiamo scomodato Federico Rampini e vi faremo sentire anche il suo commento. A New York sono le 2:30 del mattino, non l'avremo in diretta. Abbiamo invece dei maestri di giornalismo, dovendo loro poi insegnare ai giovani come si seleziona, come si scelgono, cos'è questo giornalismo, è solo un bene di consumo. Ecco che il professor Giovanni Mantovani ci esprimerà la sua opinione. Soprattutto è stato un grande giornalista di Scuola Rai, TG3, Giornali Radio, Samarcanda. Buongiorno Giovanni, ciao. Buongiorno, ciao. E con noi anche Giulia Crivelli del Sole 24 Ore, ha una vasta esperienza internazionale e controlla sempre, anche per le rassegne stampa, quello che fanno i giornalisti all'estero, quelli che riescono poi a centrare il segno anche delle vendite, quelli che invece si pongono altri obiettivi. Ciao Giulia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Comincerei con te con una domanda: qual è, per esempio, in Europa il giornale più venduto? In Europa il giornale più venduto, ed è anche il sesto giornale più venduto al mondo, è la Bild Zeitung, questo giornale tedesco che potremmo definire proprio il tipico tabloid, anche come formato, ha una stampa 3,5 milioni di copie e un bacino di lettori stimato in circa 6,5 milioni. E qual è la scelta editoriale, la linea editoriale? Ma la Bild è sempre stata davvero proprio il giornale popolare per eccellenza, e che quindi, come anche i tabloid inglesi, con questa impronta un po' scandalistica e anche magari con notizie un po' piccanti, ma in modo naturalmente molto innocente, quindi le scappatelle del politico piuttosto che l'ultima storia della velina. E però negli ultimi 10-15 anni si è molto evoluta, se vogliamo usare questa parola, e forse è come quando diciamo che la televisione ci passa i reality perché i reality hanno 10 milioni di audience. Sì, benissimo, però i reality sembrano aver ragionato gli editori della Bild, potrebbero persino essere vagamente educativi o avere una loro qualità, e questo è quello che sta facendo la Bild. Cioè, perché giudichi che si sia evoluta? Vi spiego, innanzitutto sono tutti giornalisti molto bravi, cioè noi che siamo sempre, la nostra massima ispirazione è fare lo scoop, loro gli scoop li fanno davvero. Ieri, per esempio, la Bild è stata la prima ad annunciare che il sindaco di Berlino, Klaus Wowereit, donerà un pezzo del muro di Berlino a Usain Bolt. Ma poi ci sono anche, va alla ricerca di esclusive molto più serie, proprio senza le virgolette. Per esempio, nell'edizione domenicale, che è la più letta in assoluto, l'ultima domenica scorsa c'era un'intervista alla cancelliera Angela Merkel, che ricordo per il terzo anno consecutivo è stata definita la donna più potente del mondo, e che spiegava per esempio moltissimi aneddoti sulla sua infanzia nella Germania dell'Est. Angela è nata nella Germania dell'Est ed è stata un'intervista ripresa da tutti i quotidiani del mondo, perché raccontava anche aneddoti molto curiosi. Oppure, altro esempio, in maggio, quando ancora sembrava che la Fiat riuscisse a conquistare Opel, Sergio Marchionne ha dato un'intervista dove anche dava informazioni molto importanti per i tedeschi, per esempio prometteva di non chiudere stabilimenti. Non l'ha data alla Frankfurt Allgemeine Zeitung o alla Bild. Alla Bild. E questo naturalmente legittima anche la testata. E sentiamo da Giovanni Mantovani. Dunque, siamo partiti da questo esempio degli shorts di Michelle Obama, poi come sentirete Federico Rampini stesso risponde a questa provocazione del Foglio. Tu sei un insegnante di giornalismo e hai sentito anche la tiratura della Bild, le vendite, la scelta è quella nazional popolare, dunque l'unica strada oggi, il giornalismo è solo un bene di consumo, è così che si misura il successo, la scelta giusta? Professore, devo chiamarti oggi, Giovanni Mantovani. Beh, no, professore, diciamo che siamo colleghi, quindi professore, mi sento sempre un po' in difficoltà a essere chiamato professore. No, la scelta giusta non esiste, nel senso che la Bild è un ottimo giornale che ha scelto un pubblico prevalentemente popolare e che, diciamo, riesce a parlare un linguaggio in modo tale da far conoscere anche alla gente che normalmente non legge i giornali, diciamo così, di alta qualità, tanto per capirci, anche le cose che sono diciamo invece veramente importanti. Cioè non è un giornale che esclude le notizie importanti come fanno tanti magazine, diciamo così, di gossip molto diffusi o molto popolari in Italia. Però esistono anche altri giornali, cioè c'è il Financial Times, citatissimo, conosciutissimo, c'è l'Economist che vende un sacco di copie e che si occupa soltanto di giornalismo, ripeto, tanto per capirci fra di noi, di alta qualità. Non esiste una ricetta unica, esistono tante ricette quanti sono i pubblici, per cui va benissimo i calzoncini di Obama, perché è una notizia che può, diciamo, piacere. Certo, non è che uno compra il giornale perché vede la foto della moglie di Obama con i calzoncini, però leggendo il giornale quella foto lì è una cosa che può fare richiamo, ed è comunque una notizia, una piccola novità, è una di quelle cose che riempiono i giornali. I giornali non possono essere riempiti soltanto con cose serie, drammatiche, pesanti, eccetera, debbono essere riempite con un po' di tutte le cose di cui parliamo abitualmente fra di noi a tavola, sull'autobus, in treno, eccetera, eccetera, perché secondo me è quello. Perché altrimenti è snobismo, come dice qualcuno? Ma snobismo, non credo, cioè se l'Economist sceglie di occuparsi di economia e finanza internazionale, politica, economia e finanza internazionale, non lo fa per snobismo, lo fa perché si rivolge a un pubblico di persone che comprano quel giornale per avere tutta una serie di informazioni che servono al loro mestiere. Certamente un analista finanziario non compra la Bild, magari compra anche la Bild, ma sicuramente compra l'Economist. E quindi tu fai una distinzione tra le scelte che si fanno quando si guida una certa testata o un'altra? Attenzione, dico, al target. I giornali si scelgono il loro pubblico, non è tanto il pubblico che sceglie i giornali, ma sono i giornali che scelgono il pubblico. Il giornale, adottando un certo linguaggio, un certo tipo anche di formato, no? Il famoso discorso del giornale tabloid, che è nato perché la gente potesse leggere il giornale in metropolitana andando al lavoro la mattina, oppure la Free Press, che oggi è diffusissima in tutte le grandi città, alle fermate della metropolitana si trovano tre o quattro giornaletti Free Press che uno piglia, sfoglia velocemente durante il tragitto in metropolitana e poi lo butta nel cestino quando arriva alla stazione successiva. Non è che quella sia una stampa di seconda scelta. Io ne ho visti tanti di questi giornaletti, molto spesso sono fatti bene, conosco molti colleghi che ci lavorano, sono ottimi colleghi. Per cui anche quello è un tipo di messaggio che è destinato a un certo tipo di pubblico e tratta le notizie secondo quello che serve per il suo pubblico. Il problema è trovarsi un pubblico. I più letti della settimana, il Messaggero. Brad Pitt ironizza ancora su Clooney gay, George, ma quale Canalis? Stuprata dal branco in spiaggia dopo Falò, identificati ma in libertà tre romani, conto da 850 euro per mangiare in quattro alla Maddalena, il ristoratore è equo. Questo era il quanto ci siamo presi ieri dai più letti della settimana, la website del Messaggero. Veniamo al Corriere della Sera. On top, quell'aiutino milionario del super Enalotto alla Sicilia. Vidi la bella americana e fermai la Lambretta. I 30.000 posti di lavoro che nessuno vuole. Ancora vi compare Londra, storia d'amore tra l'allieva quindicenne e la professoressa arrestata. E questa la bussola da seguire, controllare letteralmente quelli che sono i gusti, per esempio, sulle website e decidere in base a questo come impostare la pagina del giorno dopo. I giornali dunque si scelgono il loro pubblico, questo quanto ci ha detto Giovanni Mantovani. Saluto anche Raffaele Fiengo, direttore dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, che si è unito a noi, ma è doveroso a questo punto sentire, anche visto che l'abbiamo citato e ha dato così lo spunto per questa discussione, proprio un articolo che lui ha letto, il corrispondente dagli Stati Uniti, ora prima dalla Cina, di Repubblica, Federico Rampini. Ma io io non devo rispondere perché ogni lettore di Repubblica ha il diritto di avere il suo parere, la sua opinione su ognuno dei nostri articoli. Noi siamo esposti al giudizio quotidiano, quindi è normale che sia così, che ci sia questo scrutinio costante. Non credo che ci siano per forza dei generi alti o bassi dell'informazione. Nella fattispecie poi gli short di Michelle Obama naturalmente erano un pretesto per cercare di capire che tipo di immagine della donna oggi trasmette la First Lady. Ricordo che a 40 anni di distanza, più di 40 anni di distanza dalla presidenza di John Kennedy, ancora ci si interroga su quello che significò Jacqueline Kennedy nel suo arrivo alla Casa Bianca. Quindi ci sono dei fenomeni di costume che a volte meritano un po' di attenzione, non necessariamente sui rotocalchi. Poi credo che alla fine il verdetto spetta sempre ai nostri lettori, che attraverso le reazioni, scrivendo al giornale, ma sempre più spesso sul nostro sito, sui forum online, sui blog degli stessi lettori, ci indicano quali sono i temi di maggiore interesse. Allora, il giornalista, il direttore, il caporedattore, il responsabile dell'informazione oggi deve farsi guidare come da una bussola, dagli articoli, dalle tematiche che poi hanno il maggior indice di gradimento in questo tipo di interazione? Non so se l'espressione giusta sia farsi guidare. Io credo che sicuramente bisogna avere molta attenzione e molto rispetto per i gusti del pubblico, le preferenze che ci vengono indicate appunto minuto per minuto, secondo per secondo, anche attraverso questi strumenti. Da qui a farsi guidare però il passo non è scontato, perché il giornalismo è fatto anche di scelte, siamo noi che operiamo delle scelte, qualche volta le nostre scelte possono anche forzare l'attenzione dell'opinione pubblica. Noi possiamo avere un'opinione pubblica che è distratta su temi che invece riteniamo siano molto importanti, che meritano un approfondimento. Io non so, qualche anno fa, adesso siccome vivo negli Stati Uniti posso fare anche un esempio americano, fino a qualche anno fa per esempio il pubblico americano era molto distratto e indifferente sui temi del cambiamento climatico, quindi c'è voluto un'operazione consapevole fatta anche di una informazione illuminata, di avanguardia da parte di alcuni mass media, che hanno pian piano educato, risvegliato un pubblico che altrimenti si occupava d'altro, ecco, che magari pensava che altre fossero le priorità, i problemi più gravi del paese. Quindi non possiamo rinunciare a un ruolo anche, non esito a pronunciare parole che possono sembrare un po' presuntuose, supponenti, ma anche un ruolo pedagogico, educativo, altrimenti si perde il senso di una funzione e di una professionalità, perché poi il giornalista non è come qualsiasi blogger che può usare lo strumento liberamente. Oggi il giornalista è pagato, è remunerato, fa questo mestiere a tempo pieno, deve metterci qualcosa, un valore aggiunto che può essere di analisi, di approfondimento, forse qualche volta si spera anche di anticipazione di temi che diventeranno molto importanti per l'intera collettività. E questo era Federico Rampini che rispondeva a noi, non tanto al Foglio, l'ha precisato, c'è libertà di giudizio, ci si espone scrivendo a ogni tipo di giudizio. 349-238-6666 per i vostri sms, oppure continuate a scriverci a 24mattino@radio24.it. E dunque il giornalista deve anticipare, in qualche modo deve elevare a una funzione pedagogica, questo quanto affermato fino a questo punto. Raffaele Fiengo, tu che devi affrontare i ragazzi, i giovanissimi giornalisti in formazione, ti sentiresti di indirizzarli su questa traiettoria? Cosa chiedi loro? Quali sono le indicazioni, i consigli che dai? Ma io chiedo loro di comprendere a fondo come il ruolo dell'informazione prima e del giornalismo, diciamo, di conseguenza, oggi è molto cambiato, perché il discorso della globalizzazione dal punto di vista dell'informazione significa avere come una grande piazza unica di paese, il discorso del villaggio globale in un certo senso. Allora, tutti gli aspetti della vita assumono un significato più importante. Anche la foto degli short di Obama non è irrilevante, anche quello che passa come nome, sotto il nome di gossip, non è irrilevante, perché nella comunità è uno strumento di comprensione. Gli short sono un piccolo simbolo reale che conferma un'opinione, e quindi il giornalista deve saperlo collocare in questa piazza dove si ragiona anche attraverso queste cose. Prendiamo la foto della Gelmini in bikini. La foto della Gelmini in bikini non è irrilevante, perché si colloca dentro tutto questo tormentone sugli ambiti di Berlusconi, su come si diventa ministro, si colloca e arricchisce il giornalista. La Gelmini in bikini arricchisce cosa? Il discorso? Arricchisce la comprensione, diciamo, di questo, della definizione della figura di Berlusconi, per esempio, rispetto a come si governa un paese, come, quali sono le persone chiamate, in una maniera magari soft, però aiuta a definire, ed è un elemento di comprensione che il giornalista deve governare con misura, con distacco. Ma che non deve trascurare, secondo te, insomma? Ma non deve trascurare, perché nella comunità le comunicazioni di questo tipo sono correnti, e così nella comunità. Beh, anche nelle osterie, allora, cioè, qual è la differenza? Ma le osterie non sono parte della città, Sì, ma qual è la differenza tra ciò di cui si discute in trattoria, per esempio, o a cena, e quello che poi... La differenza è un'altra. La differenza è che tutto questo poi deve accompagnarsi con quello che diceva Rampini. Io lo condivido, diciamo, il ruolo pedagogico lo vedo come conseguenza di un ruolo corretto, la pedagogia insita nel giornalismo, però diciamo anche questi aspetti che apparentemente sono bassi, se sono collocati in un giornalismo autonomo e libero che esercita la sua funzione, diventano l'elemento, diventano la chiave della comunità per autogovernarsi e per essere poi democratica, perché avere le informazioni in modo pieno e corretto, compreso questi, compreso le cose che danno pruderi, non è disdicevole, anzi. E nei regimi totalitari tu dici è impossibile, quindi è un segno di democrazia. E vorrei tornare anche a Giovanni Mantovani per sentire un'altra voce su questo tema. Io non sono d'accordo con l'uso dell'aggettivo pedagogico, che trovo assolutamente pericoloso, perché il guaio del giornalismo italiano, secondo me, è proprio quello di nascere da una vocazione pedagogica, quando si formò un giornalismo, diciamo così, vero e proprio in Italia, abbastanza tardi rispetto agli altri paesi industrializzati, si formò proprio con il compito pedagogico di insegnare alla gente che si doveva fare l'unità d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi poi è rimasto sempre questo peccato originale nella testa dei giornalisti italiani. Secondo me il giornalismo... Cioè il giornalismo non deve insegnare niente a nessuno. Deve insegnare, sì, ma deve insegnare nel senso che bisogna approfondire e contestualizzare, io dico sempre, le notizie. Cioè bisogna mettere le notizie in un contesto il più possibile chiaro, completo e approfondito, in modo che la gente poi più informazioni ha e più si forma un'opinione. Cioè la pedagogia nasce dalla conoscenza dei fatti, non dal fatto che... Cioè dare gli strumenti, non insegnare. Il giornalista... Non deve mai forzare il giornalista, non deve mai cercare. Se il giornalista ha la fortuna di prevedere, è solo perché approfondendo più di altri un fatto riesce a mettere in campo più informazioni, e quindi quando si hanno più informazioni naturalmente si è in condizioni migliori per prevedere quello che può accadere. Cioè fornire gli strumenti e poi il giudizio. Esattamente, mai giudicare, mai fare pedagogia, mai cercare di forzare Grazie. L'opinione pubblica. Grazie, e naturalmente ci sarebbero elementi per discutere a lungo e molto di più, ma dobbiamo concludere. Scriveteci a 24mattino@radio24.it con le vostre osservazioni, e possiamo tornarci anche la settimana prossima su questo tema. Dicono che in Italia sono tutti allenatori, e in realtà sono anche tutti giornalisti, perché sempre c'è l'opinione sul giornale che si legge sul giornale radio, sulla televisione, e si sarebbe voluto vedere inclusa o esclusa questa o quell'altra notizia. Quindi è particolarmente sentito il tema. E si conclude la settimana, ritorneremo con i corrispondenti stranieri alle 7:15 del mattino. Loro ci racconteranno l'Italia da un altro punto di vista lunedì mattina. Ringrazio la curatrice di queste chiacchierate con i corrispondenti stranieri, Laura Marchesi, ringrazio Alessandro Marco Tulli e Sara Spreafico, sono i co-producer della trasmissione insieme all'autrice Laura Marchesi, ringrazio Carmelo in regia, Enrico Pagliarini, Valentina Furlanetto, Cristina Balotelli per i contributi nella redazione. News da Irene Zerbini, buon fine settimana.